Il sole sta calando. Una luce infuocata investe di luce l'orizzonte e confonde i confini. La città vecchia si stende intorno a noi col suo intricato sistema di terrazze accavallate, il suo dedalo sconfinato, tra i più grandi in Puglia, di antiche pietre che parlano. Oltre i confini degli edifici scorrono i campi coltivati, le distese di ulivi e poi il profilo della Murgia, col suo fascino primordiale di terra di pietre. E proprio su una collina murgiana si erge fiero Castel del Monte, la meraviglia ottagonale che l'imperatore Federico II di Svevia volle proprio qui, in questa terra assolata, nel 1240. Castel del Monte, capolavoro dell'architettura medievale, brilla di valore universale. La forma perfetta di ottagono, l'armonia delle sue proporzioni sono il simbolo della fusione possibile tra le culture più diverse, quella del Nord Europa, quella del mondo musulmano, quella dell'antichità classica. È il più noto simbolo di Puglia, Castel del Monte, ma è un bene di tutti e dal 1996 è patrimonio dell'umanità UNESCO. Quasi come una corona posata sul capo, Castel del Monte si vede da lontano, a scrutare l'orizzonte, in cima alla Murgia. È un bellissimo e largo altipiano, la Murgia, ed è solcato di sassi naturali e di sassi eretti dall'uomo, che ha provato, sin da tempi antichissimi, a vivere di questa terra faticosa e stupenda. Ha un fascino senza uguali la Murgia e reca le tracce, di pietra ovviamente, di secoli e secoli di faticoso lavoro dei campi, di culti misterici antichissimi, di schiene spezzate, di cibi poveri e salubri, di lunghe transumanze al tramonto e desiderio di riscatto. È un ricamo di pietra che intesse masserie e iazzi, gli antichi recinti di greggi transumanti e trulli e piscine che erano grandi cisterne per la raccolta delle acque e pescare, antichissimi abbeveratoi per le greggi. Si intravedono le lame, alvei di antichi fiumi e torrenti che correvano dall'altura della Murgia verso la costa, in direzione dei comuni di Trani e di Barletta, e si intravedono i tratturi, le vie che invece portavano a valle, in Puglia, le greggi abruzzesi nel periodo invernale. E così, oltre il frastuono dei tempi moderni, scopro le tracce di un universo mitico di pastori e contadini che si è mosso indisturbato ai margini del tempo, modellando i fianchi di questa città, ma anche il suo spirito e i suoi valori più profondi. Annina ha smesso di parlare. Quella che la circonda è la sua terra di sole, di ulivi e di vigneti. È una terra che trasuda devozione, fedeltà al territorio e alle proprie radici, voglia di raccontare e fare sapere di quel mondo di umili che si è mosso per secoli al ritmo lento della natura e delle lune e dei raccolti. Quel ritmo di pazienza e di attesa di cui ora abbiamo disperatamente bisogno. È arrivata la sera. A una spuntano le luci dei lampioni. Accompagno Annina alla sua abitazione a passi lenti. Le prendo le mani per ringraziarla. Sono consapevole che il fascino di questo territorio passa dalla fatica dei suoi avi e si trasforma nel bisogno di raccontare il suo mito e la sua storia, per ritrovare tutto il valore che merita. Thank you.